Giulio, hai definito le giornate ministeriali una passerella mediatica. Mi puoi fare un commento su questa affermazione? Queste giornate così rappresentano un po' un'iniziativa autocelebrativa, senza molti contenuti, con l'idea, diciamo, che con un po' di promozione, un po' di marketing si possano risolvere i problemi della cooperazione, che sono, diciamo, ben più gravi del problema dell'immagine, della conoscenza, delle iniziative poche che si fanno. E quando parlo di poche faccio riferimento a quelle della cooperazione governativa, quella pubblica ovviamente. E c'è un problema di risorse, un problema di gestione del Ministero degli Esteri, quindi insomma queste giornate sono un po' inutili e sono anche un po' una beffa, una farsa, perché di fronte a questa situazione drammatica della cooperazione servirebbe altro che non iniziative un po' passerella e un po' così, diciamo, appunto mediatiche senza nessun contenuto. In risposta alle azioni governative e alle giornate appunto promosse dal governo, la campagna Sbilanciamoci ha prodotto un libro bianco. Qual è il contenuto di questo libro, soprattutto a chi si rivolge, quali le proposte che avanzate nei confronti delle istituzioni? Il libro bianco contiene una serie di analisi specifiche sulle tendenze della spesa in materia di cooperazione e in materia di gestione della direzione della cooperazione allo sviluppo, e prende anche alcuni casi specifici che riguardano la Palestina, i Balcani, le DS, le imprese, e li sviluppa, diciamo, a partire da questa cornice generale, cioè cerca di entrare nel merito di come sono stati spesi i soldi o come non sono stati spesi, quali sono le tendenze seguite. Quindi il quadro che ne esce è abbastanza sconfortante. Tra l'altro le fonti principali che abbiamo utilizzato sono fonti non particolarmente radicali, perché abbiamo utilizzato l'OCSE, abbiamo utilizzato la Corte dei Conti, abbiamo utilizzato il Ministero degli Esteri, quindi tutte fonti, diciamo, ufficiali, e ne viene fuori un quadro deprimente, diciamo un quadro che prefigura una morte imminente della cooperazione, e quindi ecco, il dossier cerca ovviamente di fare il punto su queste tendenze, ma anche di fare delle proposte. Quindi noi abbiamo formulato 10 domande al Ministero degli Esteri, 10 proposte per cercare di salvare e di rilanciare la cooperazione. Il quadro della cooperazione italiana è disarmante, tu stesso lo hai detto. Possiamo dare qualche dato circa soprattutto i tagli che sono proposti in questa manovra finanziaria? Ma quest'anno vengono tagliati altri 250 milioni sulla cooperazione, non vengono rifinanziate alcune leggi, alcuni fondi, alcuni interventi specifici. Ricordo, i Balcani non sono più rifinanziati, il fondo globale sulla DS non ha nessun finanziamento, erano previsti 100 milioni, non ci sono soldi per la Palestina, non ci sono soldi per l'ONG, nel senso che il fondo per l'ONG viene dimezzato di fatto. Quindi ecco, faccio solo questi pochi esempi per far capire come c'è una situazione appunto drammatica, che azzera di fatto i fondi per la cooperazione, che si mantengono, posso dire, anche se calano, diciamo, a un livello che può sembrare ancora significativo, ma non lo è, diciamo, perché appunto i dati sono forti e perché non c'è nessuna corrispondenza con gli obiettivi che il governo aveva fissato nel DPF del 2003, si mantengono ancora così di un certo livello, perché il Ministero conteggia anche i soldi della cancellazione del debito, cioè fa figurare la cancellazione dei crediti di fatto inesigibili da parte dei paesi più poveri come impegno di cooperazione, quindi come soldi messi a disposizione della cooperazione, ma di fatto non è che un artificio contabile. Tutto questo ci porta, con questa finanziaria, a dire che l'Italia dedica lo 0,11% del proprio PIL alle politiche di cooperazione e sviluppo. Siamo al penultimo paese, gli ultimi sono gli Stati Uniti, nel consesso delle nazioni più industrializzate. Abbiamo parlato soprattutto di crisi economica, di crisi materiale, di cooperazione allo sviluppo che rischia di soccombere, ma parliamo anche di crisi di identità, che è probabilmente quella che la cooperazione allo sviluppo, parliamo della cooperazione italiana, sta vivendo soprattutto nei territori in conflitto. Quali sono le difficoltà che si incontrano, le cause e quali le possibilità di recupero di questa identità? Sì, bisogna dire che se la cooperazione pubblica è in grave crisi, la cooperazione popolare fatta dalla solidarietà dal basso continua a esserci, a svilupparsi, a realizzarsi tramite, insomma, le forme dell'autofinanziamento, il sostegno degli enti locali, quindi rimane un tessuto vivo di solidarietà internazionale promosso dalla società civile italiana. Certo è che bisogna avere comunque due paletti, diciamo, di riferimento, due punti di riferimento precisi. Il primo è il no alla commissione della cooperazione allo sviluppo con la politica militare e con la politica estera attuale, quella della realpolitik e della politica estera di guerra. E il secondo riferimento è il no a ogni commissione con la politica delle imprese, con la politica commerciale. Diciamo che i rischi sono proprio questi, diciamo, quelli di mescolare la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario con le guerre, interventi militari e le politiche commerciali delle imprese, che invece hanno ancora più soldi da queste finanziarie. Ricordo che sia le spese militari aumentano, sia i soldi per le imprese che investono all'estero sono di più in questa finanziaria attraverso i meccanismi assicurativi delle imprese che intervengono all'estero. Quindi io credo che un insegnamento è questo: cercare di mantenere la propria autonomia, la propria indipendenza, cercare di avere una quota sempre maggiore di sostegno, di autofinanziamento da parte della comunità e della società, e cercare di incalzare le istituzioni sul terreno della politica e non tanto su quella dei finanziamenti specifici e dei progetti. Questo ovviamente è un punto importante per poter sostenere le proprie attività, ma diciamo che il nodo oggi è cambiare la politica del governo italiano e del Parlamento rispetto alle scelte che vengono fatte in materia di cooperazione allo sviluppo. Grazie a Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci. L'appuntamento è per domani mattina alle 9:30 in piazza della Araceli a Roma per il sit-in conclusivo.